Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Girati! Non c'è nessuno dietro Dovi! È a 3 secondi e 8 quell'altro! Marc Marquez, falle con rilassatezza queste curve! Tutti in piedi sul divano per questa storica doppietta del Dovi! Più che una doppietta! Dovi Power! Dovizioso c'è! E vince il Gran Premio di Catalunya! 1-2 dopo il Mugello! Grande Dovi, commovente! E poi Marquez e Pedrosa! Balzo pure stranissimo, non saprei interpretarlo, perché è una gara stranissima, un weekend stranissimo, ma per tutti. Siamo riusciti a vincere perché siamo stati più intelligenti a capire i limiti della pista delle gomme, non perché eravamo più veloci. Dovi, Dio, ha fatto un'altra gara bellissima, è incredibile come guidava, tanti alti bassi, in un circuito fa fatica una moto, l'altra, io spingo il 100%, lo provo, non mi rendo mai e vediamo come va. Io ho visto tante volte qui al rettilineo che era lì comodo, ho detto avevi oggi, capito che ne aveva di più. Oggi dura da però provavo a tenere le gomme perché mai si sa come può calare, no? Invece mi hanno passato, tutti e due erano più veloci alla fine, io non avevo più gomme per spingere quel ritmo lì. È andata meglio di altri, sono contento. Oggi è una domenica da lucidarsi gli occhi e siamo nemmeno a metà. 800 24 00 24, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, vi aspettiamo tutti, 800 24 00 24. Adesso facciamo una bella mezz'ora dedicata ai motori, poi calcio, tanto calcio, poi parliamo della nazionale che questa sera gioca contro il Liechtenstein, della questione diritti TV, e dopo le 18 abbiamo Urbano Cairo, ospite. Voglio anche sapere cosa ne pensate di un audio che sta girando e ha fatto arrabbiare molto i tifosi del Napoli, dove c'è Buffon che parla dei cori in giro per le strade di festa per la sconfitta della Juventus a Cardiff. E dice: sono contento di non essere come loro. Poi ve lo faccio sentire, però dobbiamo partire assolutamente dalla MotoGP. Carlo Genta e Roberto Ungaro, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Roby. Allora, io faccio il riassunto per quei due o tre che dovessero non saperlo. Andrea Dovizioso che vince al Montmeló il Gran Premio della Catalogna, doppietta una settimana dopo aver vinto al Mugello con la sua Ducati. Poi Marquez e Pedrosa sul podio, poi Lorenzo, Zarco, Folger, Bautista. Si scende fino all'ottavo posto per trovare Valentino Rossi, nono Barberà, decimo Vignales, che resta leader mondiale con 111 punti, Dovizioso 104, Marquez 88, Pedrosa 84, Rossi 83, sono in 5 in 28 punti. Direi che la Ducati e Dovizioso sono diventati grandi, no Roberto? Sì, è una certezza vincere una settimana dopo su una pista diversa. È vero che Barcellona è una pista veloce, che conoscevano bene, però non ci sono più giustificazioni, non è soltanto il motore della Ducati. Qui Dovi ha fatto una gara veramente intelligente, accorta, ha vinto di testa, ha saputo gestire bene tutto il weekend ed è una prestazione per Ducati in senso generale, perché anche Lorenzo, non dimentichiamoci che finire al quarto posto con una rimonta verso la fine veramente notevole, è stata una conferma. Peccato per Petrucci perché era protagonista anche lui, però una caduta lo ha escluso dai giochi. Sarebbe arrivato quinto, no? Sì, quinto. E per Petrucci su asciutto è un'ottima prestazione, ma lo ha già fatto vedere nelle prove, perché partire in prima fila al terzo posto per Petrucci è sicuramente un grande risultato. Quindi la Ducati sta diventando forse una moto che tra l'altro lavora molto bene con queste gomme, che rimane l'incognita, perché pensiamo a Yamaha, cosa ha fatto in questa gara, devono veramente chiudersi in un box e ripensare un po' il tutto, perché non sono queste le prestazioni di una Yamaha. Vinales e Valentino sono sempre stati nell'ombra, mai protagonisti. Marquez ci ha provato, perché ci ha provato a vincere a casa sua. Ci ha provato fino a un paio di giri dalla fine, poi ha mollato. Ha mollato perché Dovi oggi era veramente imprendibile. Siccome Marquez ha fatto 5 cadute prima di partire la gara, adesso ha detto qua c'è troppo da rischiare, si è accontentato e ha fatto bene. Comunque gran bella gara, perché le due onde Ducati hanno fatto vedere un bello spettacolo. Ma il Dovi veramente non ce n'era per nessuno, perché poi ha preso ed è andato, quindi non è stato ma è esattamente come settimana scorsa, ha detto anche di non aver forzato troppo. Allora io butto lì i due temi che riguardano Dovizioso e cosa la Ducati. Cosa significa questa doppietta di Dovizioso? Il primo tema è questo. Roberto Ungaro una settimana fa ci ha detto no, Dovizioso e la Ducati non possono vincere il mondiale, faranno degli exploit, ma non possono vincerlo. Voglio capire se dopo una settimana ha cambiato idea. La seconda cosa, mi dovete spiegare per quanto Dovizioso deve andare avanti a prendere un settimo dello stipendio di Lorenzo. No, vabbè, la seconda non ha una risposta attuale. Sulla prima risponde Ungaro. Allora, io rimango della mia idea, cioè Dovizioso vincere il mondiale è difficile, non impossibile. Però devo dire che quello che ci ha accennato Carletto Pernac, cioè che ha visto una luce diversa nei suoi occhi, questo ragazzo si è sbloccato, perché fino adesso ha vinto 4 gare nella sua carriera in MotoGP e 2 le ha vinte a distanza di una settimana, le altre 2 erano sull'acqua, quindi veramente si è sbloccato. Io spero che sia così, crede più in se stesso e quindi può mettere a frutto questo grande potenziale che ha lui e anche la Ducati. Però attenzione, perché vincere il mondiale è un'altra cosa. Io lo vorrei veramente, perché se lo merita Dovizioso, e poi lo voglio per il Made in Italy, perché non dimentichiamoci che Ducati si scontra con dei colossi come Yamaha e Honda, che sono di un altro pianeta proprio in termini di dimensioni e di tutto, no? Quindi attenzione, perché Yamaha non è la Yamaha che abbiamo visto oggi, quindi risorgerà sicuramente, e Honda battere un market, il campionato è veramente difficile. Io dove ho sempre detto che il Dovi deve venire fuori più grintoso quando c'è da battagliare. Oggi c'era, era convinto, era messo bene e è preso e è andato in fuga, ma quando si tratta di fare sportellate, quando c'è veramente da giocarsela e improvvisare la linea, la traiettoria, passare o di qui o di là, è lì che il Dovi ha sempre avuto un po' il braccino, ma è una sua caratteristica. Lui è un grande ragionatore, è una persona molto lucida, non è un istintivo, e lo si vede anche nel suo stile di guida. Lotti per un mondiale ci sta anche di fare il ragioniere. Oggi ad esempio Marquez ha fatto il ragioniere l'anno scorso, certo. A lungo ha fatto il ragioniere, noi lo abbiamo apprezzato per questo. Ma si vincono anche così i mondiali, assolutamente. Il tema è un altro, cioè se la Ducati sia davvero una gara, una moto che per le prossime, quante ne mancano? 11 gare, 11 ne mancano arrivare alla fine del mondiale, possa essere mediamente competitiva, non dico su tutti i circuiti, ma quasi. C'è da sperarlo, però dipende molto anche da questa incognita che si chiama Michelin, non dimentichiamoci, perché si stanno lamentando un po' tutti della difettosità. Il problema della Michelin, ragazzi, è che i lotti non sono mai tutti uguali, cioè una gomma è diversa dall'altra, è questo il problema che hanno i vari team con Michelin. E non sta facendo una bella figura, diciamolo, perché non c'è questa fidabilità. Si va un po' a caso. Sì, cioè non riesce a dare una serialità. Esatto, non riesce a dare una serialità nelle prestazioni. Cioè, 4 gomme uguali dello stesso codice vanno in un modo diverso. E c'è sempre questa variante, questa variabile che è per i team, ragazzi. Non dimentichiamoci cosa investono, che tecnologia c'è dietro, poi tutto va in fumo perché l'appoggio a terra, il tutto passa attraverso l'impronta a terra, che sono 2 carte di credito come superficie quadrata. Non dimentichiamoci di questo, quindi la gomma è troppo importante e siamo un po' troppo schiavi di questa Michelin che ha prestazioni altalenanti. Io dico solo questo, quindi Ducati dipende anche da quello. Allora, adesso apriamo anche il capitolo Yamaha, Valentino allora, Rossi. Dopo il traffico. Però prima c'è il traffico. Allora, 800240024 per prenotarvi, intervenire, oppure 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Restiamo sui motori e poi parliamo anche della Formula 1. Traffico. I love this game. Tutti convocati. We'll be right back. Allora, leggo un messaggio che è arrivato, 349-238-6666, e ve lo giro: come mai le Yamaha non vanno più? Sbaglio di gomme, circuiti sono gli stessi dell'anno scorso o no? Questo scrive Walter, carissimo Carlo. Oggi davvero un disastro, eh? Sì, disastro, sì. C'è da capire perché, c'è da capire quale può essere il futuro immediato, anche perché il tempo passa. Cos'è successo oggi a Valentino Rossi? È solo un problema di gomme, lo sapevano, avevano paura perché l'asfalto del Montmeló è un asfalto ormai vecchio, non è un asfalto rifatto recentemente, la pista molto gommata e le gomme soffrono quando ci sono queste condizioni. La Yamaha fino all'altro ieri andava bene, è un ottimo progetto, anzi era la moto migliore, lo abbiamo sempre detto, lo dicono tutti, perché è la moto più bilanciata e non può improvvisamente diventare ultima o una moto con queste prestazioni, quindi è tutto ruota attorno alla gomma, come dicevo prima, è fondamentale, questo è il risultato del monogomma e quando non c'è l'affidabilità, perché ormai le moto vengono sviluppate per la gomma e quindi se una gomma non riesce a lavorare con una determinata moto, una determinata ciclistica o elettronica, non c'è verso di farla funzionare. Devono capire, è questo il problema, devono assolutamente risalire e lavorare molto, ma soprattutto con Michelin. Sì, anche se in realtà io ho sentito Valentino Rossi dire una cosa agghiacciante nel dopogara, dire guardate che anche in condizioni ad esempio di acqua, di pioggia, noi siamo questi, non è solo un problema di scarsa aderenza quando fa caldo, quando come al Montmeló ci sono condizioni di asfalto e di pista che sono particolari. No, ma Valentino ovviamente ha estremizzato, però sì. non può essere questa la Yamaha. Mi sembrava arrabbiato, mi sembrava... Sì, perché non è mai stato in gara comunque, lui anche quando partiva dietro, poi ci è abituato delle rimonte, e invece oggi non è proprio stato in gara, né lui né Vignales. Cioè la Yamaha si è fatta vedere con i soliti Folger e Zarco, che però ci sta, sono al primo anno, fanno vedere che potenziale c'è, però sono altalenanti, a parte vabbè, Zarco, che l'abbiamo sempre detto, è della partita anche lui ed è una costante. Ma Yamaha, il problema di Yamaha in questo momento è la gomma, ed è uno solo, quello, perché non ci sono altre motivazioni. Honda ha un'elettronica ancora difficile, cioè ha la potenza che viene scaricata molto aggressivamente e i piloti faticano a metterla a terra. Anche Honda con le Michelin ha grossi problemi, però è Yamaha in questo momento quella che ha il problema maggiore. Secondo me è l'unico fattore e la responsabilità è tutta lì. Nella gomma. Qualcuno maliziosamente dice Valentino Rossi comincia a sentire il peso degli anni. Vabbè, no, non questa, è questa una giustificazione vecchia. Non è così, perché guardiamo io la butto lì, dove era Vignales oggi? Cioè, era dietro. Quindi è proprio la moto che non funzionava con quelle gomme lì. Non è l'età di Valentino, non gli è calata la manetta, non niente di tutto questo. Perché ricordiamoci cosa ha fatto fino adesso Vignales. E non può disimparare ad andare in moto. Quindi uno deve provare ad andare in moto per capire che cos'è l'aderenza. È un fattore non importante, di più. Tutto passa da lì. Se tu non hai questa certezza, questa impronta a terra e non senti proprio il contatto col suolo, non ce n'è, non pieghi, non apri, non puoi spingere, non ti fidi, non c'è aerodinamica, è come andare sugli sci con sci che non tengono di lamina. Allora grazie Roberto, ciao, grazie a voi, ci sentiamo domani, ovviamente ci sentiamo domani. Vi leggo ancora un paio di messaggi che sono arrivati. Fabio che scrive: spero che Dovizioso non sia stato solo fortunato nella scelta della fornitura della Michelin. Non credo, perché essere fortunato due domeniche di fila diventa una grande dote o diventa statisticamente qualcosa di difficile. E poi c'è chi ricorda, e questo invece secondo me è un tema interessante, che Ducati e Honda avevano fatto i test di Barcellona con grandissima attenzione e interesse. Restiamo sui motori, questa sera ore 20 a Montreal, Gran Premio del Canada, settima prova del mondiale, si riparte con Vettel che ha 25 punti di vantaggio da difendere su Hamilton, 129-104. Si riparte anche con Hamilton invece che scappa dalla pole position. Ieri c'è stata questa cosa bellissima e anche emozionante della consegna a Hamilton di uno dei caschi di Ayrton Senna, avendo raggiunto la 65esima pole della carriera proprio come Ayrton. Ve la faccio sentire perché secondo me è stato davvero un bel momento. The Senna family wanted to give you something to congratulate you on equaling Ayrton's record. It's not a replica. It's race worn. From your hero to you. Insomma, l'avete sentito, no? Lui è emozionato, gli ha detto guarda che non è una replica, è un casco vero di Ayrton Senna e la famiglia ha voluto dartelo per aver raggiunto le 65 pole position. Saluto Matteo Bobbi della squadra Motori di Sky, ciao Matteo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, adesso mettiamo da parte il buoni. Ma Hamilton sul giro secco, vale quello che valeva Ayrton Senna o è semplicemente che è cambiato il mondo e quindi oggi si possono fare questi numeri? È un po' difficile sempre fare paragoni con epoche diverse. Secondo me quello che è importante è cercare di godersi quello che stiamo vivendo adesso, cioè un campione, è un campionissimo, è incapace di fare grandissime cose sia in qualifica che in gara, e poi i numeri li ha ottenuti, quindi è giusto dare il valore, come un po' paragonare diversi calciatori, no? Magari Cristiano Ronaldo a Maradona, è sempre difficile, però secondo me bisogna apprezzare il momento in cui viviamo. Lui adesso è il pilota che ha ottenuto più pole position, è a 3, se non sbaglio, da Michael Schumacher. Sì. Esatto, per cui insomma sono numeri importantissimi. Sì, che è vero capire. Che ha guidato spesso la macchina nettamente più forte, cosa che in parte Senna, capitava anche però a Senna, non all'inizio della carriera, forse non con questa continuità. Esatto, perché comunque c'è stato un dominio, ricordiamocelo, della McLaren. E per cui all'epoca anche Senna per un certo periodo aveva la possibilità di guidare la macchina veloce, ma fa anche un po' parte dei campioni, no? Anche Michael Schumacher ovviamente con un ciclo enorme della Ferrari, per cui ripeto, godiamoci questo campionissimo che ci sta regalando belle emozioni. Oggi è un mezzo match point, credo sia questo il tema per Vettel. Forse presto, però stiamo parlando di un gran premio che pesa doppio, no? Sì, match point no, perché siamo comunque ancora nella prima fase di campionato, per cui non si può già parlare di match point. Però sicuramente è un gran premio importante, perché dovesse vincerlo a Vettel a questo punto i punti sarebbero già abbastanza, nel senso che se non sbaglio sono 25 attualmente, si andrebbe già a toccare numeri importanti. Deve reagire la Mercedes, deve farlo sicuramente con Hamilton oggi, per cui sarà un gran premio importante e combattuto, perché qui si passa, quindi non è un po', non è come Monaco, qui i sorpassi ci sono due rettilinei molto importanti, l'effetto DRS è importante, per cui secondo me vivremo un bel gran premio. Allora, intanto vi do un aggiornamento: è appena finita la finale di Roland Garros. Rafa Nadal ha battuto, ha distrutto Stan Wawrinka 6-2, 6-3, 6-1 in 2 ore e 0-5. Dunque, Rafa Nadal che vince il suo 15° titolo in uno slam va a meno 3 da Federer. A proposito di grandi numeri, di grandi fuoriclasse, 10° trionfo a Parigi. Ne parliamo alle 18:45 poi con Vincenzo Martucci. Comunque, la notizia è Nadal che batte Wawrinka 6-2. 6-3, 6-1. Tornando invece su quello che sarà alle 20 il Gran Premio di Montreal, il Gran Premio del Canada, io non so interpretare la prima fila di Vettel e il quarto posto di Raikkonen di ieri se come una delusione o in ogni caso come un buon risultato, perché ci eravamo fatti la bocca che le Ferrari fossero le più veloci. Sì, secondo me lo sono in parte, nel senso che io sono convinto che sul passo gara loro abbiano ancora qualcosina in più, soprattutto sulla gestione dei pneumatici posteriori. La verità è che ieri Hamilton ha tirato fuori dal cilindro un giro pazzesco, che Vettel è riuscito ad avvicinarlo, però non abbastanza per fargli davanti, per cui insomma la partita è ancora assolutamente aperta, sono tantissimi giri, e ricordiamoci che la Mercedes sta soffrendo sempre con i pneumatici posteriori, per cui è un fattore importantissimo che potrebbe cambiare poi le sorti della gara. Quindi non è detto che la pole oggi sia sinonimo di vittoria. Grazie Matteo Bobbi. Grazie a voi. Grazie a Matteo. Pesa doppio. Pesa doppio il Gran Premio di questa sera. Sì, anche se Giovanni è ancora presto, anche se abbiamo tanti segnali incoraggianti, anche se sappiamo un dato politico certo, e cioè che la Ferrari rimarrà in corsa per questo mondiale fino all'ultimo. Quindi, a prescindere da come vada stasera, sarà uno snodo importante, ma non decisivo, certamente, né in un senso né nell'altro. Chiede un amico che scrive al 349-238-6666 che ruolo potranno giocare Bottas e Raikkonen. Credo quello delle damigelle, so che a Leo Turrini non piace. Ma Bottas e Raikkonen devono fare le seconde guide. Io rimango dell'idea che ho sempre avuto, e cioè devono innanzitutto proteggere il caposquadra, devono cercare di rubare punti agli altri, devono aiutare la squadra a vincere, perché io sono contrario e sarò sempre contrario ai due galli nel pollaio che si rubano le uova. Quindi Raikkonen e Bottas devono giocare questo ruolo, devono rimanere all'interno della squadra e degli ordini di scuderia. Sì, sono le seconde guide e ne sono credo anche consapevoli, anche se Raikkonen a Monte Carlo è stato ben poco sorridente per il suo secondo posto. Possiamo fermarci, prima però vi faccio sentire, ve l'avevo promesso, questo audio di Buffon ieri vigilia d'Italia Liechtenstein ai colleghi di Rai Sport. È tornato sui caroselli dei tifosi non juventini dopo la sconfitta della Juventus a Cardiff nella finale di Champions League. Ve lo faccio sentire perché sta facendo discutere, voglio sapere cosa ne pensate. Le critiche, penso che quando perdi 4-1 ricevano tutti in una finale, non è che ci sia qualcuno più indicato di altri o più colpevole, fa parte del gioco. I caroselli degli altri obiettivamente non hanno peso e non producono nemmeno nessun tipo di reazione, se non magari una specie di orgoglio, che è quello che sono contento di non essere così, quello sicuramente. Insomma, avete sentito Buffon, orgoglioso di non essere come gli altri, cioè quelli che esultano per una sconfitta della squadra avversaria. Oggi gira l'immagine di Buffon con lo striscione 5 maggio godo ancora e tanti tifosi non della Juventus gli rinfacciano questo. Io non lo so se si può mettere sullo stesso piano. 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto, poi torniamo, parliamo di nazionale, non solo. 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Tutti convocati. Convocati. Se tu dici c'è l'obbligo di vincere cercando di fare il maggior numero di gol, questo è giusto, è doveroso. Se parli di goleada è una parola secondo me poco corretta, nel senso che a livello internazionale trovami squadre che fanno goleade, ripeto, escludendo sempre l'Ixtan di settembre, perché a settembre l'Ixtan piglia sempre goleade tutti gli anni, ma maggio, giugno non piglia mai più di 2-3 gol, quindi voglio dire, per fare gol dovremmo essere bravi, quindi goleada mi sembra, credo che sia un termine un po' abusato ma poco corretto. Una notte da goleada? No, a me non piacciono questi preannunci o annunci della vigilia, perché partire così significa secondo me mancare di rispetto agli avversari che bene o male sono 11 uomini come siamo noi, poi dai un segnale secondo me di rilassatezza alla squadra. In cui noi saremo qualificati per il mondiale, sono convinto che l'Italia possa essere la sorpresa del mondiale, mentre invece ho anche detto che a livello di europei, cioè 2 anni dopo, sarà una delle favorite degli europei, perché la crescita autorizza a dire questo. E questa partita che ci dà la possibilità di poter andare su quella giostra, perché se non vinci questa partita tu non vai a giocare la partita delle partite, come è stata chiamata in questo senso. Quindi non dico che vinciamo in Spagna, dico che niente ci è precluso, questo sì. Insomma, attenti a Liechtenstein, che solo a settembre prende le goleade, e siccome adesso è giugno è un avversario meno semplice, Giovanni, meno morbido. Io continuo a pensare che siano partite senza senso, di una formula senza senso. Io che la San Marino ne ha prese 7 dalla Germania. Sì, io la penso alla Cruciani, cioè bisognerebbe ristudiare totalmente la formula di ammissione ai mondiali. Va bene allargare il calcio, va bene esplorare nuovi orizzonti, però queste partite che senso hanno? Però ti puoi giocare un mondiale, perché noi la verità è che ci giocheremo un mondiale intorno probabilmente a quell'8-0 di settembre della Spagna, sì, con il Liechtenstein, per carità, e noi ne abbiamo fatti solo 4. Aspetta che intanto saluto Mirko Graziano, inviato della Gazzetta al seguito della Nazionale. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti voi. Ce lo giochiamo il mondiale lì, è inutile che ci giriamo intorno, rischiamo. Sì, la questione della differenza reti è questa, ci impone, alla fine ci imporrà di andare a vincere in Spagna. Io più che rivedere il fatto di certe sfide, andrei a rivedere proprio il sistema di ammissione al Bravo, mondiale. Esatto, è abbastanza assurdo che Italia o Spagna di andare a giocare un playoff, quindi 180 minuti, l'accesso al mondiale, quando voi magari allo stesso torneo potrebbero proprio dare le squadre decisamente più deboli. Sì, cosa che tra l'altro capiterà anche a una tra Svezia, Francia e Olanda, e una addirittura verrà eliminata, però a questo punto sono tre che lottano per il posto e mezzo, e a una tra Svizzera e Portogallo, perché il Portogallo è secondo, è vero, sì, che no, all'ultima certo, gioca Giovanni. In casa con la Svizzera e ha la differenza reti migliore nettamente, ma oggi è dietro di 3 punti dalla Svizzera e quindi rischia Guarda, Ronaldo, io... campione d'Europa, di andare a fare lo spareggio. Ma io... però queste sono le regole, cioè le conoscevamo, non è che... Sì, le conoscevamo, però io la penso come Mirko, insomma, le grandi del calcio mondiale dovrebbero essere, ti dico, qualificate di diritto, cioè il mondiale è la massima espressione calcistica per nazionali che c'è, e non esiste che stiano fuori delle grandi nazionali a beneficio di nazionali che vanno a fare tappezzeria, quindi forse è un modo un po' estremista di pensarla, però io la vedo in questa maniera qui. Intanto c'è un amico che ha scritto un sms al 349-238-6666 e dice ricordatevi che agli ultimi mondiali l'Italia è uscita con Nuova Zelanda e Costa Rica, e quindi non esiste discorso sul... Va bene la democrazia, ma di tutto nobiltà. C'è un limite, ragazzi. C'è anche un limite calcistica. Di... No, va bene la democrazia calcistica, ma tutto c'è un limite, quello che penso anch'io. È vero che siamo usciti meritatamente con squadre che valevano meno di noi, però continuo a pensare che le grandi del calcio non possono star fuori da una Coppa del Mondo, non possono essere legate a improbabili playoff, eccetera. Poi è chiaro che c'è da rivedere l'intero sistema, ed è giusto che nazioni emergenti possano avere la loro chance, però non accetto l'idea di un mondiale impoverito per questioni regolamentari. Allora, intanto stiamo riagganciando Mirko Graziano, inviato dalla Gazzetta a Udine a seguito della Nazionale. Fa discutere la questione di Buffon, scrivono alcuni amici: Buffon si contraddice o è indifferente oppure prova orgoglio. C'è chi racconta ancora che dovrebbe spiegarsi col fatto che in Europa la Juventus non vince nulla, e, insomma, quelle parole hanno fatto discutere. 800 24 00 24, Ciro. Sì, buonasera, sono Ciro da Napoli. Vai. Innanzitutto faccio una premessa: a me i decori cosiddetti razzisti nei confronti della mia città e dei miei concittadini non me ne può fregare di meno. Se l'Italia in generale spera. Ma stiamo però parlando di altro, Ciro. Dai, sì, che sì, adesso, no, adesso che spera nel Vesuvio, no, su, no, dai. Perché è collegato al discorso di Buffon. Sì, capisco, forse anche tu sei juventino, quindi perdonami, Ciro. Sono una persona che ha un minimo di intelligenza in testa. Però, no, stai zitto, perché qui decidiamo noi chi parla. Allora, siamo delle persone con un minimo di intelligenza, quindi se mi vieni a raccontare che l'Italia spera nell'eruzione del Vesuvio, sei fuori strada. Chiaro? Adesso vai avanti. Sai perché ti ho fatto la premessa? Sì. Perché dopo, dico per dire la stampa, viene uscita sempre con il piagnisteo napoletano che si lamenta dei cori razzisti. Ma stiamo parlando di Ciro. Stiamo parlando di altro, però, mi pare. Arrivaci però. Dai. Sì, perché da Caltanissetta a Bolzano tanti italiani hanno goduto della sconfitta della Juve, si parla solo dei caroselli napoletani. Noi abbiamo festeggiato un po' più degli altri, ma se tu sei a Cardiff, ok, è già tanto che ci sei arrivato a Cardiff perché puoi vincere solo in Italia, e canti contro il Vesuvio, perché tutto il pomeriggio hanno cantato contro il Vesuvio, e voi non avete scritto e detto nulla, noi facciamo i caroselli, e anche perché c'è questo odio indiscriminato da parte del tifoso juventino, che altro non è che il prodotto che viene generato dall'accoppiamento di calabresi, no, ma stiamo facendo un sacco di confusione. Allora non mischiamo i cori con il gufismo. Allora, io sono favorevole al ai gufi, sono favorevole al tifo contro, sono favorevole al fatto che interisti, napoletani, romanisti, che tutta quella parte d'Italia che non tifa tifino Juventus contro la Juve. Tifino contro la Juve, come accade tra Barcellona e Real Madrid, eccetera eccetera. L'importante è che sia un tifo insomma goliardico, composto. Non ci vedo niente di male nel fatto che un interista come un napoletano fosse contento perché non si sarebbe dispiaciuto della sconfitta da Juve. Non mescolerei però questo piano con quello dei va di bene, grazie storie. Ciro, allora abbiamo riagganciato Mirko Graziano. Mirko, eccoci, parlavamo di Buffon, delle sue parole di ieri sui caroselli di quelli che hanno esultato per la sconfitta della Juventus a Cardiff. Oh, invece torniamo sulla nazionale. Mi dite che voto date a Ventura, che oggi è alla decima panchina azzurra. Lui ieri ha detto merita un voto altissimo, Mirko. Sì, ha detto rispetto all'eredità che ha raccolto, no? E io sono d'accordo. È un voto molto alto perché ha raccolto un'eredità molto difficile, perché la nazionale lasciata da Conte era una nazionale, diciamo tra virgolette, arrivata, andava rifondata profondamente, però avendo alle spalle non proprio giocatori pronti per aprire un altro ciclo. Ecco, piano piano, dopo 8 mesi, siamo arrivati a un punto importante. Ci sono molti giovani che spingono in prima squadra, sono molti giovani importanti, è una squadra che sembra avere davvero futuro e che è ancora in piena corsa per qualificarsi al Ma tu che voto gli dai? Dagli un voto, da 1 a 10. Io gli do 8 pieno, guarda. 8 pieno. Questi primi 8 mesi gli do 8 pieno. Bah, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con io credo che abbia sorpreso come ha cambiato pelle. In tanti pensavano che si sarebbe rifugiato comunque nell'ossatura della nazionale che aveva fatto l'europeo. No, ma è un uomo di campo, è un allenatore di calcio. Poi aspettiamo test più probanti. Io credo che un voto finale lo si possa dare, cioè un voto un po' più così probante per l'appunto lo si possa dare dopo la partita con la Spagna. Sì, perché poi passa tutto da lì, inutile che ci giriamo intorno. Non dimentichiamo che stiamo comunque per fortuna vivendo un'ottima generazione di talenti, e quindi è un momento direi buono per il calcio italiano, nonostante le mille critiche che sono state fatte, troppi stranieri, eccetera, eccetera. In questo campionato sono emersi eccellenti giocatori che Ventura ha prontamente chiamato. Manca il vero fuoriclasse, manca il fuoriclasse assoluto probabilmente, però abbiamo un'eccellente generazione di nuovi giocatori. Sì, tra l'altro oggi l'Under 20 ha conquistato un bronzo storico al Mondiale e settimana prossima inizia un europeo dell'Under 21 dove andiamo con una nazionale la più bella degli ultimi anni, adesso senza tornare indietro a quelle di Vicini, di Cesare Maldini e di Tardelli che hanno vinto tanto, però questo è davvero un bel gruppo e quindi significa che qualcosa c'è anche non dietro. Dimenticare che il nostro problema è sempre stato il salto dall'Under 21 alla nazionale maggiore. Allora, saluto e ringrazio Mirko Graziano. Ciao Mirko, grazie, buona partita. Ciao a tutti voi, ciao. Abbiamo il traffico, poi parliamo dei diritti TV. Ieri l'asta è andata deserta, è stata annullata. Insomma, il calcio italiano ha scoperto in un sabato d'estate di valere metà di quello che pensava di valere. Tutti convocati. Tutti convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Vista le proposte pervenute, dopo una discussione relativamente breve, ritenendo che le offerte non rappresentano il valore reale del calcio italiano, l'Assemblea ha deciso con voto unanime, espresso singolarmente, di non assegnare a nessuno dei concorrenti il bando che è stato pubblicato e le relative offerte. Noi abbiamo tempo fino alla fine dell'anno, perché i 6 mesi prima dell'inizio della prossima stagione ci permettono di arrivare fino a novembre, diciamo, dicembre. ragazzi. E eccoci, io vi leggo subito un messaggio che è arrivato: 1 miliardo di euro per vedere Crotone Benevento, punto di domanda, ma credo che non sia questo il punto. Saluto però Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Ciao, ciao Marco. Marco. Ciao, ciao. Allora, sintetizzando, ieri il calcio italiano ha scoperto di valere metà di quello che pensava di poter valere, e nettamente più distante dagli altri campionati europei di quanto sia stato fino ad oggi, e quindi ha deciso, io credo legittimamente, di cancellare tutto e di ricominciare da capo. Ha detto Tavecchio: la Serie A non vale così poco e non la svenderemo. Ha ragione Marco? Beh, sai, tu sei stato molto brutale nella tua sintesi, però... il problema qui è che bisogna fare un bagno di umiltà e rendersi conto che tutto quello che è mancato nello sviluppo del calcio italiano, tranne poche isole felici, ora in qualche modo si paga da parte dei club. Anche il fatto che a gestire questo momento così delicato sia il presidente della FIGC, un commissario, e non un manager come tutte le altre leghe, ti fa capire la distanza che abbiamo da campionati che incassano molto più di noi. Ora... Perché poi, perdonami, la domanda di fondo è: non è che non ci sono offerte adeguate alle aspettative semplicemente perché il nostro campionato è più brutto degli altri? Beh, sai, io credo che in parte questo sia vero. Il problema è che su questa questione, cioè sulla attrattività del nostro campionato, poi se ne aggiunge un'altra che è più di carattere industriale, che attiene al mondo dei broadcaster, delle cosiddette telco, cioè le telecomunicazioni, che in tutti i paesi, come dire, ormai si fanno concorrenza avendo le reti per acquisire i contenuti da trasmettere su queste reti. Da noi in Italia c'è un problema infrastrutturale per cui magari certi soggetti come Telecom sono meno allettati dal comprare i diritti TV del calcio, laddove invece in Inghilterra, in Francia, in Spagna le telco sono intervenute massicciamente nel calcio, hanno garantito contratti ricchissimi ai campionati, proprio perché utilizzano poi il calcio per vendere di abbonamenti alla banda larga, di internet. E da noi tutto questo non è ancora avvenuto, e si è sommato, ripeto, un problema proprio industriale legato alla situazione di Mediaset, certo, alla situazione di Vivendi. Io credo che fino all'ultimo momento in qualche modo Vivendi e Mediaset abbiano trovato un accordo, perché Mediaset ha bisogno in qualche modo dei soldi di Vivendi per finanziare l'investimento, Vivendi ha bisogno della rete distributiva di Mediaset. Il mancato accordo rispetto a questo comune interesse penso che abbia spinto tutti a disertare l'asta e a cercare di guadagnare tempo. Il problema è che il calcio italiano questo tempo da guadagnare, esatto, non ce l'ha. Marco, io ti faccio una domanda banale da fruitore: quando avremo le idee chiare? Quanto tempo ci vorrà per avere le idee chiare, per capire dove vedremo il calcio, dove possiamo fare l'abbonamento, dove appunto a santo votarci per vedere, vabbè, per vedere o calcio, parliamo ovviamente della stagione 2018-2019, sì, la prossima, sì, no, è chiaro, prego Marco, chiaro, no, ma questo chiaro, per chiarezza, però, perché poi la gente a quanto casa tempo ci vorrà? Ma sai, io credo che tutto dipenderà da quanto velocemente Mediaset, Vivendi e quindi Telecom, perché Vivendi controlla Telecom, riusciranno a trovare un qualche accordo al netto poi di tutte le valutazioni antitrust. Credo che il nodo sia quello, anche se poi ieri è avvenuta una cosa molto positiva in questo marasma per il calcio italiano, cioè che un soggetto nuovo, Perform, di cui oggi insomma ho provato a descrivere un po' il modello di business sulle pagine del Sole 24 Ore di Sport e Business, ecco, è intervenuto e ha offerto quasi 50 milioni, forse anche qualcosina in più, per acquisire i diritti di trasmissione del web. Ecco, Perform è un po' una sorta di Netflix dello sport, per ora è presente in Germania, in Giappone, in Austria, in Svizzera, cioè acquista appunto i pacchetti per le trasmissioni web e le rivende con abbonamenti molto flessibili, con costi contenuti. Il fatto comunque che un soggetto internazionale sia voluto, abbiamo voluto partecipare a quest'asta, offrendo comunque soldi rispetto a un pacchetto che nello scorso triennio ha ricevuto zero offerte, beh, in qualche modo può essere un segnale di qualcosa che sta avvenendo. Lo stesso Di Servo ha parlato, per esempio, di un interesse fortissimo di soggetti come Google, come Amazon. Ora immagino, insomma, che sia vero, non voglio mettere in dubbio le parole di De Siervo, che poi questo non ci sia tradotto in offerte, insomma. De Siervo, però stiamo parlando di Infront, cioè chi deve vendere questi diritti, e che avrebbe anche garantito il minimo di un miliardo, ma poi non è che se arriva un miliardo da Infront i problemi sono risolti. E qualcosa temo, credo, vedremo anche già su questo mercato, mancando la certezza dal 2018-2019. Marco, ti devo salutare, ci fermiamo qui. Grazie Marco. Grazie. Ciao, a voi, Marco. A presto. Grazie Marco Bellinazzo. Abbiamo, dai, meno di un minuto. Francesco da Bergamo. Francesco. Ciao Carlo. Vai. Ciao Giovanni. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo andare velocemente sulle dichiarazioni di Buffon. Sì. Nel senso che io non sono d'accordo con quelli che dicono che Buffon si rimane la parola, perché lo striscione del godo per il 5 maggio, in quel caso la Juve ha vinto e l'Inter ha perso. Sono d'accordo con te. Nel caso invece dei caroselli, io sono milanista, perciò sono totalmente anti-juventino, però non sono d'accordo su chi dice che Buffon dice una cosa e poi invece fa il contrario. Sono d'accordo con te, perché il 5 maggio la Juve ha vinto, quindi non si tratta di gufare e basta. Grazie Francesco, ci dobbiamo fermare perché c'è il GR 800 24 00 24. Quando torniamo c'è Urbano Cairo e parliamo anche del caso Donnarumma, perché oggi potrebbero esserci degli sviluppi clamorosi. Quando questi frutti daranno risultati copiosi, beh, questo è solo un indovino, però ce ne sono molti di quelli che hanno giocato contro il San Marino che prima della partita ho detto: ditemi chi vuole le chiavi per entrare dalla porta nazionale, e direi che tutti hanno detto: io voglio esserci. Hanno provato a tutti i costi di tirare fuori la propria chiave, quindi credo che ci siano veramente, sono contento di questo, sono contento. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, o vuoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. So che appunto mio padre si sente confessore per dargli consigli. Ovviamente il Milan ha fatto parte della vita di mio padre, fa parte del suo cuore e continuerà a farne parte, quindi è un legame che non si spezzerà mai. Da tifoso io credo che pensa quello che pensano tutti i tifosi. Io posso parlare per quanto mi riguarda. Donnarumma è un giocatore straordinario, potrebbe essere la futura bandiera del Milan. Mi rendo conto che la trattativa sia delicata, ma noi ci auguriamo che il giocatore possa decidere di restare. Questa Barbara Berlusconi ieri, 800 24 00 24. Siamo ancora per un'ora insieme, quindi vi aspettiamo, pure 349-238-6666, sms e whatsapp. Parliamo di Donnarumma con Furio Fedele, collega del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Perché oggi firma una prima pagina al Corriere dello Sport in cui dice Donnarumma ha deciso di rinnovare con il Milan e addirittura l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo Italia-Liechtenstein, no? Capito bene, Furio? Sì, hai letto bene, ma c'è anche una deadline abbastanza precisa e decisa, perché poi praticamente il giorno 16, se non sbaglio, venerdì 16 giugno, inizia l'Europeo Under 21 e Gigio Donnarumma ha accettato di difendere la porta della squadra allenata da Di Biagio, che parte fra le favorite per conquistare questo importante trofeo. Quindi non resta molto tempo per poter partire, per poter decidere prima della partenza, anche perché il Milan comunque vuole avere una risposta decisa e precisa. C'è ottimismo in casa Milan perché praticamente l'unico ostacolo, non è poco, ma resta comunque l'unico ostacolo, è rappresentato da Mino Raiola, ma la volontà del giocatore, la volontà della famiglia, soprattutto la volontà del Milan, spinta da anche una pressione mediatica positiva e dai tifosi, è quella di che Donnarumma resti con il rinnovo del contratto. Poi per quanto riguarda il futuro, ovviamente. Ma a che condizioni? Cioè, perché sai, un conto sono le condizioni economiche, un conto sono le condizioni Raiola, quindi il controllo sul cartellino, o meglio sul futuro del cartellino, o meno, perché in Italia non si possono avere percentuali di controllo di cartellino, quindi non è di questo che stiamo parlando. Cioè, quali sono le condizioni? Sai, l'affare Pogba mi sembra che sia stato gestito in maniera più che soddisfacente per quanto riguarda Raiola. Il quale in realtà non è che vede di buon occhio evidentemente il fatto che Donnarumma resti nel Milan. Che cosa pretende? Pretende di avere il controllo del giocatore e soprattutto in caso di stagione negativa, perché questa è una stagione da dentro fuori per quanto riguarda la nuova proprietà cinese, probabilmente vorrebbe avere la facoltà di avere praticamente il controllo di Donnarumma per portarlo via l'anno altrove. Prossimo. Esatto, questo. La famosa clausola. Esatto, una clausola, questo ovviamente non è accettabile perché Donnarumma ha un valore ben preciso e il problema è rappresentato da questo. È chiaro che Donnarumma non accetterebbe di restare in un Milan, disastrato, anche se le premesse non sono sicuramente queste, e lo stesso Milan avrebbe ben altri problemi piuttosto che tenere Donnarumma fra un anno se le cose dovessero andare male, ma mi sembra che già prevedere una catastrofe sia abbastanza ineleganti e anche prematuro, perché le premesse, penso che tu sei d'accordo con me, sono tutt'altro che negative. Sì, sta lavorando. Sì. Partendo dal presupposto che l'obiettivo minimo ovviamente è il quarto posto, l'unico Furio, forse disponibile. Beh, Furio, allora sono Carlo Genta. Mi sembra la soluzione più equilibrata per tutti, quella che abbiamo sempre detto essere la soluzione più equilibrata per tutti. Sì. Cioè Donnarumma in questo particolare momento di ricostruzione del Milan è chiamato a fare il simbolo e la bandiera, il simbolo della ricostruzione. È un ottimo portiere, bandiera è veramente tanto. Più che bandiera, il simbolo della ricostruzione del Milan. È giovanissimo, andrà comunque a guadagnare molto bene. Il futuro è in mano sua. E quindi adesso vediamo, inchiostra questo contratto e poi tra 2, 3, 4 anni potrà farsi ammagliare da altre sirene. È talmente giovane che questa mi sembra la soluzione più equilibrata. Senza contare il fatto che avesse dato retta ora alle sirene, vai al Real Madrid, vai allo United, vai dove vuoi tu, ti trovi addosso delle pressioni che comunque al Milan non avresti. In realtà poi tutte queste offerte in questo momento non ci sono, perché tutte le varie squadre, ovviamente quelle di altissimo profilo, si sono già mosse, oppure come il Bayern Monaco non hanno questa necessità. E per quanto riguarda una possibile insidia, potrebbe essere rappresentata dal Paris Saint-Germain. Domani si presenterà il nuovo direttore sportivo in Italia per trattare Verratti, per parlare anche di Grigoriak, il centrocampista che potrebbe essere il sostituto di Biglia, che comunque resta nel mirino del Milan come primo obiettivo per la cabina di regia. Però anche in questo caso bisogna puntualizzare E la decisione del Milan è quella di considerare Donnarumma incedibile a tutti gli effetti. Cosa vuol dire questo? Che se dovesse esserci un divorzio sarebbe unilaterale, nel senso voluto solo da una parte, e questa parte dovrebbe essere Donnarumma, che dovrebbe comunque, sto facendo ovviamente un caso limite, dovrebbe anche addebitarsi tutte le responsabilità, e una scelta che sarebbe comunque molto molto pesante, perché probabilmente si tratterebbe di un viaggio di sola andata, considerato anche il fatto, vi ricordate, dei ritorni bis di Shevchenko e Kakà, che se ne andarono con il pallone d'oro conquistato con il Milan, e nei loro ritorni rossoneri non furono altrettanto fortunati. Non fecero benissimo. No, assolutamente no. Allora, io ringrazio Furio Fedele. Poi questa mattina abbiamo visto Plizzari, classe 2000, parare due rigori all'Uruguay nella finale per il terzo e quarto posto del Mondiale Under 20 in Corea del Sud. E io vi invito, andatevi a rivedere le immagini, perché Plizzari ha parato due rigori esattamente nello stesso modo in cui Donnarumma si rivelò al mondo. Estate 2015, parando un rigore a Cross in un amichevole Real Madrid, e l'estate dopo parando un rigore a Rafinha, sempre un'altra amichevole estiva contro il Bayern di Monaco. Furio Fedele se le ricorderà certamente. Stesso tipo di parata. Grazie Furio. Ci fermiamo, abbiamo Urbano Cairo che è pronto, parliamo di Toro, di mercato, ma soprattutto della questione dei diritti TV che abbiamo accennato prima con Marco Bellinazzo. Un minuto, torniamo subito. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Stiamo contattando Urbano Cairo che ci sta rispondendo. Vi leggo qualche messaggio che è arrivato. Uno è sulle pretese di Donnarumma. Manco fosse Cristiano Ronaldo, fosse il Milan, lo manderei via. Perché poi il rischio è questo, in realtà, che si sia già sfilacciato quel rapporto privilegiato tra il ragazzino del settore giovanile e i tifosi. Ma quello si fa presto a ricostruire, Giovanni. Non credo che sarà questo il principale dei problemi. Tu sai benissimo come nel momento in cui Donnarumma firmerà questo benedetto contratto tornerà tutto a posto e sarà il beniamino dei tifosi. Allora, abbiamo Urbano Cairo che saluto e ringrazio. Presidente. Buongiorno. Buongiorno a lei, come andiamo? Tutto bene. Ma lei glielo dà Belotti al Milan da mettere insieme a Donnarumma? Cominci subito facile, no? Cominci ma non subito. Mi aspettavo questa domanda. No, ma che domanda... Che domande indiscrete fai, Capuano? Sembrano domande da fare. Metti che risponde di sì, abbiamo fatto il botto e salutiamo. No. Io Belotti me lo tengo, me lo voglio tenere, l'ho detto bravissimo. Già più volte. Giusto, quindi io non... Belotti ha una cosa che io ho firmato nel novembre dell'anno scorso, e cioè io ho firmato un impegno con lui di vendere il giocatore a una squadra estera se questa squadra offrirà 100 milioni. Perfetto. E soprattutto anche se lui sarà d'accordo, perché lui potrebbe anche dire io non ci vado, quindi io a 100 milioni devo vendere il giocatore, lui può anche rifiutarsi. Questo è quello che io al momento ho diciamo come certezza, e poi il resto diciamo c'è molto interesse ovviamente sul giocatore. Ci mancherebbe altro. Molti che chiamano Petrachi, qualcuno chiama anche me, però io dico questa cosa, insomma, no? E quindi poi è molto importante anche vedere il giocatore come che cosa si posiziona, vuol fare? Io è evidente che tutto quello che dico è chiaro. Io con lui ho un contratto fino al 2021 che abbiamo firmato nel novembre, eccetera, eccetera. Però è evidente che un giocatore del livello di Belotti, che ha fatto 26 gol più altri 4 tra Coppa Italia, vari, eccetera, e nazionali, che ha superato i 30 gol quest'anno, 32 forse, è evidente che è un giocatore che è anche un bravo ragazzo, tra l'altro. È evidente che devi tenerlo con te, nella tua squadra. Io ci terrei molto, e l'ho detto anche più volte, diciamo che sarebbe una buona cosa anche per lui, perché farebbe un grande campionato e andrebbe ai mondiali. Io infatti faccio un appello, deve restare al Toro o in Italia al massimo, non mandatelo in Inghilterra nell'anno del mondiale, su. Questo è un appello. Però ecco, poi il tema è che è molto importante che lui mi dica, presidente, eccomi qua, non mi venda, sto con anno vedremo, insomma, ecco. No, poi, quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino, guarda, perché lo dica, impressa, ma lo dirà, caro... ecco, poi lui si spoglia, lui però adesso è impegnato anche con la nazionale, certo, stasera, e poi col matrimonio giovedì, sì, sì, sì, sono, impegni importanti, io sono anche invitato, spero di poter andare, perché sposto ha qualcosina, qualcosina da fare. No, ma a me è rimasto impresso, Urbano Cairo voglio molto bene, ci conosciamo bene, mi è rimasto impresso una volta, mi disse a questi microfoni: mi faccio dare le distinte degli osservatori stranieri che vengono a vedere il toro. Immagino che ne abbia un pacco così, Press. No, beh, in effetti, e non è neanche la cosa più, come dire, di dettaglio che faccio, perché no, mi piace, certo, entrare nei dettagli, perché è nei dettagli che trovi la verità delle cose, no? Non è nelle grandi cose soltanto, ma le cose piccole sono quelle che ti spiegano moltissimo del tutto. Per cui, però, insomma, ecco, diciamo che io, che la cosa di Belotti è questa, è articolata, è un po' articolata. Assolutamente. Lei sta aspettando che anche lui, insomma, dica no, il suo parere definitivo, sì, ma magari credo, non a me, magari anche, però, insomma, diciamo che secondo me lì è importante capire bene lui che cosa vuol fare, al di là della clausola, che quello è un fatto relativo, però al di là di quello, se veramente sente di poter rimanere al Toro il prossimo anno, come io credo che lui possa fare, e secondo me anche lui credo che lo pensi, però mi piacerebbe appunto poi incontrarlo e sentirlo dalla sua viva voce per fare un grande campionato con noi. Allora lì io non rispondo neanche più al telefono, certo, almeno che uno non arrivi con i 100 milioni. Non arrivi con i 100 milioni, ma tanto deve arrivare con l'accordo di Belotti, che ha detto che invece vuole restare. Quindi comunque la notizia del presidente ce l'ha data, cioè che si aspetta un'uscita pubblica di Andrea Belotti e da qui al matrimonio o alla partenza delle vacanze ci sarà anche dopo il matrimonio. Mettiamo scadenze. Posso fare una domanda più facile invece? Press, al di là di Belotti, che toro sarà l'anno prossimo? Quale toro possiamo immaginarci l'anno prossimo? Quale toro vorrebbe l'anno prossimo? Io credo che noi dobbiamo lavorare per fare un toro ovviamente più bello, più forte, più competitivo, che prenda meno gol, eccetera. Io vi dirò, mi ha colpito una cosa che ha detto poco fa, pochi giorni fa, Percassi, fresco di un risultato straordinario tenuto quest'anno, quarto posto, Europa League, eccetera eccetera, una bellissima squadra, che ha detto: vai, il prossimo anno cominciamo a salvarci. Allora questo lo si dice perché si vuole togliere un po' di pressione. Allora dico, secondo me oggi più che fare tante dichiarazioni è importante fare le cose bene, fare la squadra migliore possibile, perché evidentemente questo è importante, e poi umilmente cominciare e fare le partite, giocare bene, vincere le partite, e poi mano a mano è il campionato stesso che dice che sei forte e che puoi ottenere risultati, più che non fare grandi proclami. Io ho imparato nel calcio che fare i proclami non va bene. Porta non va anche bene, un po' iella. Porta anche un po' di iella, guarda. Abbiamo avuto anche qualche esempio recentissimo, non le chiederò, ecco, perché ha tifato a Cardiff, però se me lo vuoi dire no, ce lo dice. No, ma non ho fatto il tifo, non ho fatto il tifo. Però non ha fatto il tifo. Ascolti, non però ho fatto il tifo, non fatto noi ovviamente l'abbiamo chiamata anche per la questione di ieri dei diritti TV. Ho letto che nelle scorse ore lei ha detto che il calcio italiano si deve sentire in una botte di ferro, non deve aver paura di quello che è successo. Io però credo che quello di ieri, insomma, come immagine sia stato un brutto colpo per un campionato che puntava a darsi un valore, a guadagnare di più, e in realtà scopre per una serie di ragioni, di situazioni, di valere meno della metà. Ma io no, un momento, non è che vale meno della metà, perché alcuni pacchetti non hanno avuto offerte, quindi chiaramente quei pacchetti che non hanno offerte, nel momento in cui verranno invece ripresentati, avranno offerte, aumenteranno il valore, quindi non è vero che sia la metà. Secondo me, io le spiego il motivo per cui ho detto che siamo in una botta di ferro, secondo me. Io dico, noi abbiamo un prodotto, il calcio, che è il prodotto in assoluto più amato e più seguito dagli italiani, ma non soltanto dagli italiani, direi dagli europei. E quindi è un prodotto bellissimo, un prodotto che piace molto alla gente, che ha un seguito incredibile. Avete visto anche i risultati, per dire, della finale di Champions, che è evidente che è una cosa assolutamente unica e quant'altro, però ha battuto tutti i record televisivi, diciamo, dell'anno, no? Per cui abbiamo un prodotto fortissimo, che secondo me deve essere venduto a un prezzo maggiore. D'altra parte, oggi siamo secondi alla Premier League, e va bene, ma siamo anche secondi alla Spagna, ma siamo anche secondi alla Germania, il che non è logico secondo me dal mio punto di vista. Quindi il tema mio è: dobbiamo ovviamente fare un'offerta, presentare diciamo un'offerta al mercato che sia un'offerta che vada nella direzione diciamo di quello che può massimizzare il valore per noi, no? Poi dobbiamo anche sicuramente migliorare ancora di più il campionato, e allora qui entreremo in un discorso, in un ragionamento legato anche alla sua competitività. Beh, c'è anche chi dice che un campionato dove vince sempre la stessa squadra ha meno interesse. Bravo, Beh, ma questo vale questo in valore assoluto. Purtroppo la ripartizione delle risorse viene fatta in un modo che avvantaggia troppo alcune squadre e non altre. Per cui io vedo in Spagna tu hai che il 50% dei diritti è ripartito in parti uguali, e questo vale anche per l'Inghilterra. Cioè in Italia siamo al 40% e così via. Quindi ti devi migliorare certamente il campionato, che peraltro comunque è già bello e ha tantissimi campioni. Devi proporre al mercato dei broadcaster e comunque sia chi potrebbe essere interessato ad acquistare i diritti, una proposta che massimizzi l'entrata per il calcio, e credo che ci possa essere. Noi abbiamo sempre fatto le offerte per piattaforme, però per esempio in UK, piuttosto che, quindi in Gran Bretagna, piuttosto che in Germania, le offerte vengono fatte per prodotto, e allora ragioniamo anche di quello. E poi comunque sia, come terza ipotesi, abbiamo sempre il fatto che la Lega potrebbe anche dotarsi di una struttura produttiva ovviamente ben diversa da quella attuale, che è molto ridicata, come fanno peraltro per esempio in Spagna, prodursi le sue partite e poi vendere direttamente lei. Beh, il canale della Lega, che viene un po' tirato fuori tutte le volte che c'è difficoltà, c'è emergenza, poi in realtà non si è mai fatto. Chissà che non sia la volta buona, perché voglio dire, io personalmente le dirò, se si va avanti anche in un modo per cui si vende ai broadcaster, a me va bene lo stesso, non è che io faccia il tipo per, ma a volte le cose accadono perché sei in parte costretto magari da una sottovalutazione del tuo prodotto eccetera, e a volte quando accadono perché sei costretto si possono rivelare una cosa splendida, per cui non sarei preoccupato, sarei sicuramente attento a vedere quali sono le opportunità, quanto viene valorizzato il calcio per le società, per poi magari investire parte di queste valorizzazioni, perché no, nel fare degli stadi fatti bene. Ma anche qui attenzione, in parte dipende anche dalla politica, perché questi stadi, quando debbono essere approvati, come sempre è, dalle amministrazioni comunali, non arriviamo mai ad un punto. Adesso qualcosa si sta muovendo, una legge c'è. Però voglio dire, se il calcio dipende molto dalla televisione, è anche perché, numero uno, diamo tutte le partite in TV. E questo non accade. Bisognerebbe darne meno. In Gran Bretagna non danno più quelle partite. Ma secondo lei dobbiamo imitare quel modello? Sicuramente quel modello ha portato risultati notevolissimi. Ad esempio in Gran Bretagna tu hai 2 ore del sabato. Sì, dalle 15 più o meno. Esattamente, dove non dai le partite in TV. Cioè, perché loro giocano prevalentemente il sabato. Quindi voglio dire, ci sono delle cose che loro fanno anche per proteggere diciamo la vendita ai botteghini, o comunque sia, no? Poi per esempio il merchandising in Italia c'è un tema anche di contraffazione che è molto importante, e lì bisogna intervenire, perché altrimenti le magliette, io posso vendere tante magliette di Belotti, ma per esempio di Belotti, ma magari tante sono contraffatte, certo, comunque va bene certo, lo stesso. Certo. Quindi voglio dire, secondo me non è soltanto colpa del calcio se dipende troppo dalla TV, ma anche di una serie di cose che non dipendono soltanto dal calcio. Poi il calcio faccia bene le cose che deve fare, perché è evidente che non dobbiamo trovare alibi nella politica, nel fatto che diamo troppe partite in TV eccetera, ma questa è una realtà. Abbiamo meno di un minuto, io posso fare un'ultima domanda a Urbano Cairo, che è ovviamente un editore molto importante. Volevo sapere se da editore lei è rimasto sorpreso dal fatto che Mediaset non abbia presentato offerte, si sia strategicamente ritirata dall'asta, perché poi ieri mattina questa notizia insomma è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno. Allora, diciamo due cose. La prima, il fatto che Mediaset non abbia offerto, lì dipende da loro, dalla loro politica, da quello che stanno pensando di fare sulla Pay TV, cioè, sono tutte cose che io sinceramente non conosco direttamente. Sicuramente avevo sentito tipo, diciamo che c'era un pochino una preferenza che questa asta andasse un po' dopo, diciamo, la data che abbiamo stabilito noi con l'apertura delle buste ieri, quindi può essere stato che magari hanno preso tempo, magari sì. Non lo so, hanno fatto un'offerta, non hanno fatto offerte anche per questo motivo, così come magari Sky poteva avere delle preferenze diverse, quindi per il momento si è limitata ad offrire quello che poteva essere giusto per loro in questo momento, perché magari hanno la predilezione ad avere un'offerta diversa, magari per prodotti invece che per piattaforma, non lo so. Secondo me è veramente neanche il primo tempo della partita, è una partita importante che secondo me andrà in un modo ben diverso da come sembra. È ancora lunghissima, grazie Urbano Cairo. Grazie Presidente, grazie. A presto. Ci dia un grazie colpo quando Belotti si è sposato e con calma le fa sapere che resta. Che cattivo. Vabbè, adesso lasciamolo sposare con calma. Grazie Presidente. Grazie presto. Grazie a voi. Grazie Urbano Cairo, ciao, hai capito. Capuano è gente. Abbiamo Ibra. Aspetta, l'hai visto, no, il suo video su Facebook, quello dove lui è sotto le coperte. E fa vedere che è ancora interessato a tornare a giocare a calcio. Voi anche se l'ha scaricato Mourinho. Sì. Nessuno mi ha. No, è stata scaricata. Oh, sì, ha messo questa musichetta qua. Avete sì. guardato il mio video in sì. Instagram, ok? Sì. Va bene. Ho preso nuove scarpe con tacchetti. Sì, ma non servono a niente. Number 52 le ho lucidate. Ma non servono a nulla. Forse dovevo mostrare meglio polpaccio. Forse sì. Perché dovevo tirare piumino e far vedere tibia. No. O perna. No. Ginocchio. Faccio vedere mutande. Però ha fatto. No, le mutande. Faccio vedere anche un mutande. Po' di tristezza vedere. No, faccio vedere mutande con su scritto divieto di caccia. No. Va bene. No. Ok, faccio un altro video. Se no. volete mia intervista, ma non la vogliamo. E Capuano, non la vogliamo. Mia intervista esclusiva, basta chiedere. No, okay? Ma vogliamo un'intervista. Hai visto come ha cambiato atteggiamento adesso che Mourinho l'ha tagliato? Radio 24 è radio molto importante, sì. Confindustria. Ma noi abbiamo voi fatto... siete grandi. Sì, ma noi visto, infatti, il presidente Urbano Cairo. Avevamo. Abbiamo un grandissimo tecnico. No, ma non ci interessa. Zlatan già sta cercando, non è evidente. È che non confila più nessuno. Io ascolto sempre voi, mi piace come trattate. Allora, magari facciamo. Cosa così. Devo fare? No, se ci mandi video. Due righe di mail. Faccio due, ma io sono già a disposizione. Oppure 800 24 00 24. Magari ti passiamo. Quando volete, io sono qua vogliamo. Perché sono sempre Mamma. Number one. Com'è finito malissimo. Torniamo fra un minuto. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Se tu pensi ai Donnarumma, se tu pensi a Conti, Zappacosta, De Sciglio, se tu pensi ai Florenzi, perché questi non ci sono da tanto tempo, ma fanno parte di questo gruppo, se tu pensi ai Rugani, Romagnoli, ai Verratti, ai Gagliardini, ai Pellegrini, ai Berardi, ai quelli che ci sono adesso, i Sharau, Insigne, e chi più ne ha più ne metta, ai Belotti, Immobile, ed è già futuro questo. In nazionale ti giri e vedi Donnarumma, alla Juventus fra poco ti girerai e vedrai Szczęsny. Ti stanno preparando la pensione? Beh sì, penso che sia anche giusto, nel senso che non sono eterno e non ho mai pensato di esserlo. Ho sempre ragionato di gruppo. La nazionale e la Juventus in questo caso sono molto più importanti del singolo giocatore di Buffon, e quindi è giusto che sia così. Stanno preparando la pensione Buffon, no? Hai capito, Szczęsny, Donnarumma. Poi abbiamo sentito prima l'elenco dei tanti giovani che si stanno affacciando alla ribalta della nazionale. Saluto Cosimo Sibiglia, vicepresidente della Federcalcio, nonché presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che significa presidente di centinaia di migliaia di tesserati. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Oggi abbiamo festeggiato il terzo posto storico dell'Italia nel Mondiale Under 20. Settimana prossima, ormai l'abbiamo detto con chiarezza, insomma, andiamo a un europeo dell'Under 21 con grandi speranze. Ventura, io non so che voto dà lei a Ventura per le prime 9 partite in nazionale. Cosa ne pensa, presidente? Ventura ha creato un gruppo splendido. Io l'ho conosciuto in questi mesi. Abbiamo un commissario tecnico che sa lavorare come pochi con i giovani talenti. E credo che un risultato che bisogna attribuire a lui è proprio questo, cioè lavorare con i giovani. E stasera la partita che abbiamo, dobbiamo tutti tifare perché l'Italia, oltre a vincere, possa realizzare una goleada. Anche se Ventura sto termine non lo vuol sentire. Ma il risultato in sé per sé non credo sia in discussione, la vittoria. Il problema è che dobbiamo fare qualche gol in più per competere con la Spagna. Altrimenti la Spagna giocherà per 2 risultati. Certo. Senta, ma ci siamo lamentati troppo di noi stessi prima, quando dicevamo che non c'era futuro, non c'erano giovani. Insomma, noi siamo andati l'estate scorsa all'Europeo, con una squadra tra l'altro rimaneggiata per gli infortuni, dicendo ci sono solo questi, dietro non c'è nulla o quasi. Io credo che bisogna dare atto alla federazione, al suo presidente Attavecchio, di aver impostato negli ultimi anni un lavoro serio, importante, che oggi sta cominciando a dare i primi frutti, li ha già dati all'Europeo. L'avventura dell'Under 20 in Corea, ricordiamo che l'Under 20 ha ottenuto il 3° posto, la medaglia di bronzo proprio questa mattina, è stata un'avventura esaltante. Tra pochi giorni giocherà l'Under 21 di Biagio. Io credo che anche qui, se tutti siamo convinti, potremo ottenere dei risultati molto molto importanti e grandi soddisfazioni. Allora, l'unica cosa, Giovanni prima faceva riferimento all'Under 21, che è comunque in una grande edizione. L'Under 20 ha fatto questo risultato e lei fa bene a sottolinearlo. Il nostro vero problema è sempre stato, storicamente, il passaggio da Under 21, Under 20 di grandi prospettive alla nazionale maggiore. Cioè, spesso abbiamo avuto dei fiorellini che poi ad alto livello non sono sbocciati. Il motivo mi sfugge, oppure il motivo è che passando tra i più grandi le difficoltà aumentino. Ma sicuramente c'è stato qualche problema per il passato, però per lo stesso motivo del quale parlavo prima, cioè questa impostazione che è stata data al settore giovanile della federazione, i centri federali che sono stati creati e saranno ancora creati dal presidente della Federcalcio e dalla federazione tutta intera, stanno a dimostrare che c'è professionalità, cioè si parte dalla base per cercare di crescere quei talenti che poi saranno il futuro del calcio italiano. Se qualcuno per il passato si è perso, diciamo così, speriamo che attraverso questa impostazione che parte appunto dalla base si possa verificare che questi campioni già nell'Under 21 si possano confermare anche nella nazionale maggiore. Ma quanti anni servono secondo lei per arrivare? Detto che ci siamo risvegliati scoprendo di avere già una base di giovani più che interessante, quanti anni servono per vedere gli effetti di un piano, di una politica? Guardi, lei sta parlando con il presidente della Lega Dilettanti, questo esercito di volontari che si muovono per l'unico amore che è quello del calcio. Noi che rappresentiamo la base appunto del calcio italiano, 13.000 società in Italia, 70.000 squadre, più di 1 milione di tesserati, noi cominciamo dai nostri campionati a creare i presupposti perché tutto questo avvenga e noi crediamo fortemente che questo possa avvenire proprio perché c'è bisogno della capillarizzazione sul territorio e a cominciare dai giovanissimi, dagli allievi, poi dai juniors, dai campionati, dai nostri campionati dilettanti possiamo creare tutto questo. Lei, da esponente della federazione, ritiene che i club stiano facendo di tutto per aiutarvi, per aiutare la nazionale? Quest'anno qualche giovane in più si è visto, ad esempio anche in Serie A, giocare con continuità. L'anno prossimo, è notizia di ieri, la finale di Coppa Italia, se l'Italia andrà ai mondiali, ma nessuno vuole immaginare uno scenario diverso, è non anticipata a inizio maggio, esatto. Ha ragione Ventura quando dice si può fare di più sempre. Ma sicuramente il calcio e lo sport devono essere sempre competitivi, dobbiamo mettere in campo sempre le nostre migliori energie, dobbiamo cercare insomma di competere ai massimi livelli, dobbiamo essere dinamici e dobbiamo invitare tutti e quindi tutti i dirigenti delle società, gli allenatori, a schierare sempre più giovani e sempre più italiani, perché così rafforzeremo il nostro settore giovanile, che poi è la base per poter creare quello che è il presupposto essenziale per fare bella figura con la nazionale maggiore. Ogni tanto non ci hanno sentito, no Carlo? però noi siamo sempre fiduciosi che si possa migliorare. Ma bisogna avere questo spirito, sempre migliorare, sempre creare dalla base e creare soluzioni che possano essere utili per far crescere l'intero movimento. Dalla base cresce l'intero movimento, dalle radici, Giovanni. Ci dice un numero questa sera, quanti ne facciamo al Liechtenstein, bando a qualunque tipo di superstizione. Non tantissimi, come al solito, non tantissimi. Presidente. Ah, si rivolge a me? Sì. Io vorrei fare un gol in più di quello che serve per superare. Quindi se lo scordi, caro Presidente. Sa che credo che nella storia della nazionale italiana 9-0 non sia mai capitato. Forse un 9-1. No. Famoso Italia-Stati Uniti di un mondiale. Facciamo fatica a dilagare contro queste squadre. A me questi risultati eclatanti danno un poco fastidio, perché poi non bisogna mai mortificare l'avversario. Però quando c'è necessità risultato così importante, dobbiamo competere ai massimi livelli e quindi dobbiamo rispondere a quello che ha fatto la Spagna. Quando serve, serve. Quando c'è, va bene. Va bene. Abbiamo il traffico. Io ringrazio Cosimo Sibilia, presidente. Grazie, buonasera. Buona partita, Cosimo Sibilia, vicepresidente della Federcalcio, nonché presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Allora, prima del traffico, saluto anche Carlo Genta. Ti lascio il microfono questa settimana. Che va in ferie, beato lui. Quindi ci ritroviamo domenica prossima alle 17, mentre domani ci sarò io con Domenica Felici ci sono. E abbiamo il traffico, poi torniamo. Ciao, c'è il tennis con Roland Garros. Tutti convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Tutti convocati. Intanto, a proposito di calcio giovanile, siamo nell'intervallo della finale del campionato primavera che si sta giocando nello stadio del Sassuolo a Reggio Emilia. L'Inter è avanti 1-0 sulla Fiorentina, Inter che ha già vinto anche il campionato Beretti. Prima di parlare del Roland Garros con Vincenzo Martucci, che adesso ci raggiunge, abbiamo un documento esclusivo importantissimo. Sapete che nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Presidente Mattarella e il Papa, ecco, e noi possiamo far sentire che cosa hanno parlato veramente, perché hanno parlato anche di calcio e anche loro gufavano, rosicavano. Oh, carissimo Sergio, vecchia ruga, come stai? Carissimo Francesco, sto bene. Desidero ringraziarti molto per la visita così cortese che mi stai regalando. Non ti vedo da molto tempo, ma oltre a portare le corone dei fiori sopra dei monumenti, fai anche altre cose? È il solito, caro Francesco, ma ciò che conta è che le nostre relazioni abbiano un tasso di univocità, di condivisione ed amicizia che contribuisce a rafforzare la spinta verso una fattiva collaborazione tra Stato e Chiesa in tempi di crisi. E dimmi piuttosto una cosa, hai guardato la finale dei Champions? Sì, da Presidente della Repubblica Italiana ho seguito con grande trepidazione e apprensione la Juventus. E hai sofferto molto? Sì, ma ho condiviso la sofferenza con milioni e milioni di italiani. Poi la botta tremenda. E il secondo gol di Ronaldo? No, è il pareggio da Mandzukic. Ma poi Dio vede e provvede. Non è vero, E tutto è bene, che finisce bene. Siamo noi. Non è vero. Il campione questo non è un documento originale, ci hanno rifilato questo file, il nostro Andrew Mercou. Figuriamoci se hanno gufato contro la Juve anche il Papa Presidente Mattarella. Figuriamoci. Vincenzo Martucci, ciao. Ciao. Oggi chi è che poteva gufare contro Nadal? 6-2, 6-3, 6-1, 2 ore 0-5, decimo Roland Garros, quindicesimo titolo dello Slam, meno 3 da Federer, un'esecuzione praticamente. Sì, sì, io pensavo ci fosse partita, infatti sono stato molto criticato sul web perché io ero convinto che il primo set fosse cruciale, se Wawrinka si fosse caricato era l'unico giocatore che con la sua potenza poteva dargli fastidio, ma non c'è stato assolutamente match perché Nadal ha servito benissimo e ha risposto ancora meglio, ha giocato benissimo di rovescio, ancora meglio di rovescio che di dritto, e l'altro non ha trovato assolutamente vie di sbocco per picchiare come piace a lui, non è mai riuscito a entrare in campo e pian pianino ha perso fiducia, sicurezza, è uscito dal match dopo un 7.5. Sì, tra l'altro Nadal lasciando soltanto 6 game a Wawrinka ha chiuso vincendo il torneo perdendo 35 game, il suo record era 41 nel 2008, quindi più invecchia più migliora. Sì, è il terzo Roland Garros che chiude senza perdere set. Questo è stato un Roland Garros particolarmente facile fra virgolette per lui, perché veramente ha avuto un tabellone abbastanza agevole, ma io devo dire una cosa, io sono passo per essere federiano, nel senso che per me Federer è il tennis come gesto tecnico, come bellezza, come esecuzione, come atletismo, come il tennis, ecco. Nadal merita tutto il nostro rispetto perché è un atleta esemplare come comportamento, basti dire che fino a pochi minuti fa era ancora in campo a firmare autografi, a farsi selfie con i raccattapalle, con gli spettatori, ma oltre a questo è un esempio perché è un giocatore che si è riciclato dopo infortuni, dopo mille problemi che ha avuto, il ginocchio, il polso. Non dimentichiamo che un anno fa lui si è ritirato qui prima del terzo turno perché appunto aveva una tendinite al polso, non ha giocato contro Granollers, ha avuto degli stop anche di 6 mesi, cioè questo giocatore è un giocatore straordinario. E secondo me questa impresa dei 10 Roland Garros è l'impresa più grande della storia del tennis. Voglio che sia chiaro per tutti quelli che mi accusano appunto di non essere un rogeriano, questa impresa è più grande di tutto, più grande dei 18 slam di Federer, più grande dei 2 slam di Lever, perché era un'altra epoca, perché si giocava su 2 superfici, perché si giocava a 2 all'ora, si giocava più piano, con tutto il rispetto per questi grandi campioni. Obiettivamente vincere 10 volte lo stesso torneo, che poi è il torneo più duro di tutti, insomma, signori, questa è una cosa che resterà nella storia per sempre. È qualcosa che etichetta un valore assoluto. A me colpisce che tu hai citato i vari infortuni di Rafa Nadal, che tornerà domani numero 2 della classifica mondiale. Mancava dall'ottobre del 2014, cioè dall'inizio di quel calvario. Io non so quanti avrebbero scommesso. Poi magari ci sono anche le colpe degli altri, quelli più giovani, che fanno fatica ad imporsi. C'è la crisi di Djokovic. Sì, certo, lui comunque è straordinario, perché a prescindere da quello che fanno gli altri, lui si è ricreato completamente, cioè ripartire da zero quando uno ha il problema che a lui ha le ginocchia, quando lui non riusciva più a far nulla, non è facile, e io veramente bisogna prenderlo come un esempio, un giocatore che ogni punto lo considera un punto dietro punto, non guarda mai oltre, ha sempre rispetto per tutti gli avversari, cioè è veramente il giocatore esemplare. Gli altri purtroppo contro di lui annaspano, ma lo stesso Federer obiettivamente sotto il profilo dell'agonismo puro e anche della visione del gioco è in difficoltà. Federer in più ha questo fisico naturale, ha questo colpo d'occhio, questo braccio straordinario, ha chiaramente altre qualità, però se parliamo proprio di questo di cui parlavi tu, obiettivamente gli altri sono lontani anni luce ed è difficile ricreare un personaggio così. Questi sono personaggi unici nella storia dello sport. Andrebbero clonati uno come Djokovic, pensa che è straordinario anche lui, alla fine è andato per aria, è imploso perché non ce l'ha fatta più. Invece Nadal è ancora lì e tieni presente che a Wimbledon lui potrà puntare ragionevolmente a tornare addirittura numero uno del mondo, e nella condizione in cui è, servendo e rispondendo come sta rispondendo lui, con le gambe che sembrano essere tornate quelle di un tempo, e lui per come si muove sull'erba può fare sfaceli. Grazie Vincenzo. Arrivederci. Grazie a Vincenzo Martucci. Dunque abbiamo commentato la vittoria di Rafa Nadal nel Gran Premio questa sera alle ore 20 nel torneo di tennis del Roland Garros. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia, Andro Mercù con le sue voci. Tutti convocati weekend torna domenica alle 17 fino alle 19, mentre con Tutti convocati ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.